Gli uomini, spiegò a Ingeborg in un inglese perfetto mentre versava il caffè, necessitano maggiore nutrimento per via di tutto il loro lavoro intellettuale. Sì, lo credo anch'io. Quando mi sposai, ricordo la gioia e l'orgoglio che provai all'idea di avere qualcuno di mio da nutrire. Davvero? Disse Ingeborg. Si tratta di un istinto, disse la baronessa, che aveva tutta l'aria di impartire una lezione. Riposto in ogni vera donna. Ella desidera nutrire e naturalmente la gioia di nutrirne due è doppia rispetto alla gioia di nutrirne uno. Sì, credo che sia così, disse Ingeborg, che trovava qualche difficoltà nel seguire il filo del discorso. Quando il mio primogenito. Ah sì, disse Ingeborg, lieta di comprendere. Quando il mio primogenito mi fu posto fra le braccia. Mi è impossibile esprimere, Frau Pastor, la gioia che provai nell'avere un altro essere da nutrire. Credo che sia stato meraviglioso, disse Ingeborg, assentendo educatamente. Gli occhi della baronessa si abbassarono per un attimo con aria interrogativa dalla sua faccia a tutto il resto del corpo. Per 6 anni, proseguì dopo una pausa, regolarmente, a Natale, ebbi rinnovato motivo di felicità. Suppongo che il Natale qui da voi sia incantevole, disse Ingeborg, come nei libri, con tutti quegli alberi decorati. Alberi? Naturalmente avevamo gli alberi, ma soprattutto dei bambini. Per 6 anni, regolarmente. In occasione del Natale il mio regalo per il mio caro marito fu un bambino. Cosa? Proferì Ingeborg, spalancando gli occhi. Uno nuovo. Certo, una madre non può avere lo stesso figlio 2 volte. No, certo che no, ma. Ma avete fatto a nasconderlo fino al giorno di Natale? Non era possibile, naturalmente, rispose la baronessa alquanto impettita, tenerlo nascosto alla stregua di un regalo che non fosse stato un bambino, ma dal lato pratico rimaneva a tutti gli effetti nascosto fino a Natale. E quel giorno nasceva. Oh, penso che sia davvero una cosa straordinaria, disse Ingeborg, genuinamente compiaciuta nei confronti di una tale metodicità. Presa dall'entusiasmo, si era protesa in avanti e si abbracciava le ginocchia con le mani. Sì, disse la baronessa, lasciandosi andare un poco di fronte a questo apprezzamento così lusinghiero. Sì, lo fu. Alcuni lo chiamerebbero caso, ma noi, da buoni cristiani, sapevamo che si trattava del cielo. Ma che puntualità, disse Ingeborg ammirata, che precisione. Eh sì, rispose la baronessa ancora più rilassata e compiaciuta per i piacevoli ricordi del passato. Quelli erano tempi felici, molto felici, con i piccoli che andavano e venivano. Andavano anche oltre a venire? Chiese Ingeborg abbassando la voce a un tono appropriato alle condoglianze. Intendo dire che si muovevano per la casa. Oh sì, disse Ingeborg sollevata. Ogni anno, a Natale, la luce delle candele illuminava l'ultimo arrivato dei nostri tesorucci. Ogni anno i doni dei trascorsi natali si riunivano nuovamente attorno all'albero, sempre più grandi e forti invece che persi o rotti, come sarebbe successo se fossero stati qualsiasi altro tipo di dono. Ma che cosa accadde quando non ve ne furono più da donare? Allora regalai a mio marito delle scatole per i sigari. Dopotutto deve pure arrivare quel momento nella vita in ogni donna. Io non me ne lagnai. Quando il cielo cessò di fornirmi un regalo per mio marito, seppi che era ora di chinare il capo, accettare e andare ad acquistargliene uno. Da Wertheim a Königsberg si trovano eccellenti scatole portasigari. Se per caso desiderate regalarne una a Herr Pastor il prossimo Natale, non si scuciano agli angoli entro luglio o agosto dell'anno successivo, come accade a quelle che si comprano in altri negozi. Eh sì. Anni felici, anni molto, molto felici. Prima 6 anni di gioia immensa nel costruire la mia famiglia, poi lunghi anni di felicità nell'allevarla. Mi piacciono i bambini, naturalmente. Non ne ho mai avuti. Certo che no, disse la baronessa, irrigidendosi di nuovo. Quindi non posso saperlo, disse Ingeborg. Ma ogni donna che si possa davvero definire tale ama i bambini piccoli, asserì la baronessa. Sì, però devono essere presenti, rispose Ingeborg. Le donne possiedono degli istinti che sono instillati loro da Dio stesso. Sì, ma bisogna pure avere qualcosa sotto gli occhi per poterli mettere in pratica, rispose Ingeborg. La vera donna trabocca d'amore, sentenziò la baronessa in un tono che suonava come un rimprovero. Sì, credo di sì, replicò Ingeborg, che sentiva di non averne mai incontrata una. Dinanzi agli occhi le si era formata la visione di qualcosa di totalmente morbido, attutito e carezzevole, nonché meraviglioso al tempo stesso. Di a qualcuno dei vostri figli a casa? Domandò, pensando che sarebbe stata una buona occasione per testare i propri istinti sui giovani Glambeck. Sono cresciuti e andati nel mondo. Alcuni in paesi lontani, sì. Si rimane soli. La voce della baronessa acquisì un tono nobilmente lamentoso. Il destino dei genitori. Si rimane soli. Soli. Ho avuto cinque figlie. Fu un gran sollievo riuscire a maritarle tutte. Naturalmente vi era il pericolo che, essendo così numerose, alcune sarebbero potute rimanere con noi per sempre. Ma almeno non sareste rimasta sola, ribatté Ingeborg. Allora, Frau Pastor, non si sarebbero potute sposare. No, certo. E poi? Proseguì Ingeborg in tono partecipe. In tal caso adesso non avreste la possibilità di sentirvi sola. La baronessa fissò il suo sguardo su di lei. Certi sentimenti non sono del tutto negativi, sapete, disse Ingeborg sporgendosi in avanti di nuova testimonianza del suo interesse. In qualche modo può essere piacevole essere tristi, intendo, e pensare alla propria solitudine. Naturalmente di gran lunga più gradevole essere felici, ma anche non esserlo ai suoi lati positivi. È come un profumo. Si concentrò per cercare nella sua mente le parole appropriate. È come un giorno di pioggia. In confronto al giorno prima sembra scuro e tetro, eppure vi è della gioia. E le cose, proseguì esitando, procedendo a tastoni alla ricerca dell'espressione giusta, sembrano crescere, mutano, però sono ugualmente belle. La baronessa, che non la seguiva e del resto non aveva nessuna intenzione, non essendo compito suo ascoltare la moglie del pastore, lanciò nuovamente un'occhiata inquisitrice lungo la figura di Ingeborg e frenò la propria tendenza a parlare più di quanto fosse consono alla sua posizione, concludendo il colloquio con un commento sul fatto che Ingeborg fosse ancora così magra. Quando fu trascorso un altro breve intervallo di tempo dopo che il caffè si fu freddato, Ingeborg, durante una pausa della conversazione, si alzò per accomiatarsi. Gli altri tre la fissarono sbigottiti, come folgorati. Persino suo marito la guardò senza comprendere. Sembrava una cosa sciocca dover spiegare che era giunto il momento di andare a casa, ma fu quello che alla fine mormorò in tono sommesso alla baronessa che la fissava attonita. Non vi sentite bene? Indagò la baronessa. Che cosa ti succede, Ingeborg? Le chiese Herr Dremmel. Il barone raggiunse una finestra e la spalancò. Sarà certamente un po' di debolezza, disse, aggiungendo qualcosa a proposito delle giovani mogli. La baronessa le chiese se desiderasse sdraiarsi. L'atteggiamento di Herr Dremmel divenne solerte e interessato. Che cosa ti succede, piccola? Le chiese di nuovo alzandosi. Credo che sarebbe bene se Frau Pastor si riposasse un poco prima di cena, suggerì la baronessa alzandosi a sua volta. Certamente, rispose Herr Dremmel con grande partecipazione e con una strana espressione sul viso. Ingeborg spostò il suo sguardo da una all'altra. Robert, disse, e chiedendosi al contempo il motivo di quell'espressione, non sarebbe ora di andare a casa? Cara Frau Pastor, disse la baronessa con un atteggiamento maggiormente caloroso, fra poco starete nuovamente bene, credetemi, manca ancora un'ora alla cena. Venite con me così potete sdraiarvi e riposarvi un poco. Robert, disse Ingeborg sbalordita. Fu così che venne portata via, o per meglio dire trascinata, oltre a delle porte a vetri, poi lungo un corridoio dal pavimento lucido, senza tappeti, fino a una stanza per gli ospiti, dove le venne ordinato di issarsi sul letto bianco, parecchio rialzato da terra, e di tenere la testa in posizione un po' più bassa rispetto alle gambe. Ma perché? Chiese Ingeborg. Entro l'ora di cena vi sentirete meglio. Conosco bene tutti questi sintomi, disse la baronessa che stava spalancando le finestre e si stava dimostrando improvvisamente amichevole. Sentite nausea? Nausea? Ingeborg si chiese se la quantità di dolce mangiato fosse parsa eccessiva. Ne aveva preso due fette. Forse vi era una rigida tradizione locale che ne prescriveva una soltanto. Si sentì di nuovo impigliata in una ragnatela di convenzioni che nessuno si dava pena di spiegarle. La baronessa appariva piuttosto delusa per il fatto che lei non si sentisse per nulla nauseabonda. Era forse dovere degli ospiti sentirsi male. Si chiese se per caso non si trattasse di un sottile stratagemma per sottolineare l'irresistibilità del cibo della padrona di casa. Poi pensò che molto probabilmente in quelle regioni rurali era usanza mettere a letto l'ospite a metà della visita e la sua omissione nel fare lo stesso con la suocera poteva spiegare uno dei motivi delle sue lacrime. Ritenne che a parte il ritornarsene prontamente a casa, come era d'uso fare in Inghilterra, quella di riposino fosse senz'altro la soluzione migliore. Il pensiero che si trattasse di un costume locale la rese immediatamente più arrendevole. Cercando di mostrarsi il più educata possibile, si arrampicò senza indugio sull'altura delle bianche onde trapuntate e gonfie di piuma. Mentre si inabissava nelle profondità del letto, sentì sprigionarsi un sentore di naftalina, rivelando così un'attenta e incessante battaglia contro le tarme. La baronessa prese a osservarla. «Sono certa che sentite nausea?» «Sì, un po' sì», rispose Ingeborg, ansiosa di offrire ogni possibile soddisfazione. Evidentemente fu la cosa giusta da dire, poiché il viso della baronessa si illuminò. Uscì rapidamente dalla stanza e fece ritorno recando dell'acqua di colonia e un ventaglio. Ingeborg la osservava al di sopra dell'onda del piumone con occhi vivaci, curiosi, mentre spostava un tavolino portandolo al lato del letto e posandovi sopra con gli oggetti. Che strano, pensava, estremamente interessata. Chissà se pure il barone in quell'istante stava mettendo Robert a letto in qualche altra stanza. Sentì che all'improvviso aveva preso a farsi ben volere, che alla fine si stava comportando nel modo più corretto. In contrapposizione alla superbia dimostrata durante la prima parte della visita, le maniere della baronessa stavano diventando parecchio umane e cordiali. Sistemandole il tavolino accanto, le disse che la cosa preferibile, di gran lunga la migliore, sarebbe stata provare a dormire un po', e se avesse avuto bisogno di qualcosa che suonasse pure, e Tina, la cameriera, sarebbe subito apparsa. Eh sì, disse a conclusione, fermandosi per un attimo a osservarla sul letto ed esalando al contempo un profondo sospiro che a Ingeborg parve in qualche modo un'espressione di piacere. Eh sì. Quando uno dice A, cara Frau Pastor, poi deve dire anche B. Eh sì. Detto questo, lasciò di nuovo la stanza in punta di piedi, chiudendo la porta dolcemente e lasciando Ingeborg in uno stato di vivo interesse e curiosità. Quando uno dice A, poi deve dire B. Perché mai? E che cos'era B? E soprattutto che cosa poteva significare A? Rimase un attimo in ascolto in posizione sollevata, appoggiandosi su un gomito, la chioma più scarmigliata che mai dopo l'immersione nelle piume. Poi si lasciò scivolare giù sul pavimento liscio e corse scalza fino a una delle grandi finestre. Questa si affacciava su un angolo di giardino aggrovigliato, ubicato sul retro della casa e costituito da un agglomerato incolto di cespugli di rose e di lillà, di erba cresciuta a dismisura e di abeti canadesi. Non essendovi nessuno in vista, si issò sul davanzale e sedette là, felice di quell'occasione di divertimento, lasciando dondolare i piedi e godendosi il suave fluvio rilasciato dal giardino al termine della lunga giornata calda. Rimase là fino a che ritenne che l'ora, quell'ora benedetta, fosse oramai al termine. Poi sgattaiolò via e si sistemò nuovamente, con ogni cura, nel letto. Questo sì, che è un bel modo di far visita, pensò, tirandosi la trapunta finalmente e rimanendo in attesa di ciò che ancora vi fosse in serbo per lei. Capitolo 16. Non si accomiatarono che alle 9 di sera. Alle 7 fu servita la cena, un pasto alquanto elaborato che li tenne impegnati per un'ora e mezza. Poi fu offerto dell'altro caffè, servito sul terrazzo da camerieri in candidi guanti di cotone e mezz'ora dopo, poco prima della partenza, di nuovo tè, panini dolci, frutta e birra. A Ingeborg era divenuto improvvisamente chiaro il motivo delle lacrime di Frau Dremmel. Quella cena sontuosa, la tavola ancora carica di vivande, la reiterata offerta di rinfreschi mentre la visita si approssimava al termine e il ristoro del letto nel mezzo, le fecero acquisire consapevolezza di quanto orrendo fosse apparso alla suocera il suo comportamento. La inviterò di nuovo, disse all'improvviso, determinata a fare ammenda. Quando annunciò questo suo proponimento, la carrozza li aveva finalmente distanziati dalla vista e dall'ascolto degli ora cordiali Glambeck, e sobbalzava guardando il fondo sabbioso della strada che si snodava fra i boschi oltre il cancello di quella patrizia dimora. «Chi desidera invitare la mia piccola?» domandò Herr Dremmel chinandosi in avanti. Egli teneva un braccio attorno alle spalle della moglie e allorquando arrivava uno scossone particolarmente potente, aumentava la presa e la sollevava un poco. Il tono della sua voce era dolce e quando si abbassava verso di lei, Ingeborg percepiva un persistente odore di sigaro e vino, frammisto a quello di tessuto gommato del suo impermeabile. Ingeborg, per qualche ragione a lei oscura, sapeva di avere riscosso grande successo. Aveva la netta sensazione che a metà visita fosse diventata improvvisamente popolare. E a quanto pareva, continuava ad esserlo. Ma perché? Robert era straordinariamente premuroso, troppo premuroso a dire il vero, data la notte stupenda, pregna di stelle e di soavi profumi, ora che si trovavano all'aperto. Che notte incantata! Ogni volta che lui si chinava verso di lei, però, le impediva di bearsi di quella meravigliosa vista. Caro Robert, come lo amava! Ma i suoi pensieri ora erano lontani. Erano in fondo al prato, laggiù, dove la foschia bianca aleggiava sugli acquitrini paludosi e dove le foglie degli iris che crescevano lungo il fossato si ergevano ritte al chiar di luna come aste d'argento. Ingeborg pensava con bramosia alla fragranza fresca, rugiadosa, che si sarebbe sprigionata dall'erba se l'avesse calpestata con i piedi, alla perfetta solitudine e al silenzio immoto. Un silenzio rotto solo dalla presenza del tarabuso, di cui aveva scoperto l'esistenza in quelle paludi. Se ora fosse stata laggiù, sdraiata sull'erba che ricopriva il ciglio del fossato, sola e senza produrre il minimo rumore, l'avrebbe certamente sentito emettere il suo urlo grave. «Chi desidera invitare la mia piccola?» ripeté Herr Dremmel, piegandosi verso di lei e occludendo alla sua vista l'intera Via Lattea, nonché alle sue narici la moltitudine degli effluvi che la brezza notturna le sospingeva dolcemente sul viso. Egli la baciò con grande tenerezza e per un tempo insolitamente lungo. Il bacio durò così tanto che Ingeborg si perse il profumo di un intero campo di trifoglio. «Tua madre», rispose Ingeborg non appena riuscì a riemergere. «Oh, santi numi!» ribatté Herr Dremmel. «Ora so che cosa ho fatto, o meglio che cosa non ho fatto. Ora so perché continuava a dire Brackartofen. Oh, Robert!» Quanto deve esserci rimasta male? Deve aver pensato che non me ne importasse niente. E io che desideravo così tanto che lei fosse felice. Ma perché non mi ha detto nulla? Dirti cosa, mia pecorella? Che avrei dovuto preparare una cena e invitarla a mettersi a letto. A letto? Anche il barone ti ha messo a letto. Ha messo a letto? Sì, a letto. Herr Dremmel si chinò di nuovo verso di lei e guardò con espressione ansiosa la porzione di viso visibile al chiar di luna. Sembrava normale, per nulla arrossato, febbricitante. Le toccò una guancia con un dito. Era fresca. Piccola, che cos'è mai questo parlare di letti? È solo che mi risparmierebbe un sacco di situazioni imbarazzanti se tu prima mi dessi almeno un'idea di ciò che ci si aspetta da me. Non ti prenderebbero che un attimo. E senza perdere tempo durante il tuo lavoro in laboratorio, ma nei momenti morti come la colazione o mentre ti radi, sarebbe stato molto utile se mi avessi avvertita riguardo al riposino e a tutte le vostre altre abitudini. Certe cose sono troppo difficili da immaginare. A Rochester non è d'uso far coricare gli ospiti, capisci? Ed è una trovata così felice. Oh, sono così contenta di aver sposato uno di voi. Uno di noi? Herr Dremmel scrutò di nuovo il suo volto con ansia. Sì, un rappresentante del vostro straordinario popolo, della vostra gente meravigliosa, di ampie vedute. A Rochester ci sbarazziamo delle difficoltà scappando via. Voi invece le affrontate e le superate. Non vi è dubbio su quale sia la soluzione migliore, non credi? Egli trasferì il suo sigaro tra le dita che le cingevano la spalla e posò la mano destra ben piazzata sulla sua fronte. Era fresca. Chi altri? Proseguì Ingeborg con entusiasmo, sottraendo la fronte alla sua mano. Potrebbe istituire un'usanza che permette alle visite di durare 5 ore senza provocare alcuna rimostranza. Siete governati da una forma di disciplina troppo splendida per ribellarvi. Ecco perché vi mettete alla ricerca di un modo che rende le visite sopportabili e subito azzeccate quello più piacevole. Quanto gradito quell'ora trascorsa a letto. Se solo l'avessi saputo l'altro giorno quando è venuta tua madre. Il sollievo che dà. Ma mia madre? Esordì Herr Dremel in tono perplesso, poi con un tocco di severità aggiunse: Ciò che dici, tesoro mio, sembra alquanto fuori luogo. Dimentichi forse che mia madre è vedova. Oh, e le vedove non fanno cosa? Non si riposano? Ora, ti prego di essere così gentile da spiegarmi, disse con un'impazienza che la calma apparente celava a fatica, pur sapendo che un marito che volesse diventare padre con successo doveva essere pronto ad adeguarsi alle più svariate disposizioni d'animo. Di che cosa diavolo stai parlando? Beh, del fatto che tu non mi spieghi le cose per tempo. Quali cose? Per esempio, che tua madre doveva mettersi a letto. E perché mai mia madre avrebbe dovuto mettersi a letto? Oh, Robert, perché questa è l'usanza! Non lo è affatto! Perché pensi che lo sia? Cosa? Mi chiedi questo quando ci sono appena stata portata? Portata sotto i tuoi stessi occhi! Ingeborg! Non chiamarmi Ingeborg! Ingeborg! Questa è mancanza di serietà! Sono pronta a tollerare gli umori più capricciosi riguardo al cibo e cose del genere, ma sono destinato a dover sopportare la mancanza di serietà per 9 mesi! Lei lo fissò. Sei stata portata a letto perché non ti sentivi bene, aggiunse. Ma io mi sentivo benissimo, disse lei con indignazione. Allora anche lui pensava che lei non sapesse trattenersi in presenza di un dolce? Cosa? Non stavi male? Nella sua voce v'era una nota di delusione così cocente che questa volta fu lei a scrutare attentamente il suo viso. Ora sono io che prego te di essere così gentile da spiegarmi, Robert, di che cosa diavolo stai parlando? Gli disse tirando leggermente la manica dell'impermeabile. Ma non vi sentite svenire? E ora ti senti davvero bene? Allora non stai male dopo tutto? Di nuovo lei colse l'amara nota del disappunto nella sua voce. Ma perché mai dovrei sentirmi male? Allora si può sapere perché hai chiesto di essere portata a casa non appena abbiamo messo piede dai Glambeck? Era la prima volta che si rivolgeva a lei in quel tono, pronunciando parole che esprimevano non solo rabbia, ma anche un grande dolore. Non appena vi abbiamo messo piede. Ma se eravamo lì da 2 ore, perché non mi hai avvertito che fare visita significa anche fermarsi a cena? Dio onnipotente, è proprio necessario soffermarsi anche sul più insignificante dettaglio dell'umana esistenza. È mai possibile che io debba guidarti personalmente di passo in passo lungo il tuo cammino? Che tu mi consideri alla stregua di un maestro elementare, che non riesca a immaginare proprio nulla, a calcolare la probabilità, a rischiarare la mente attraverso la luce della deduzione, a illuminarla su ciò che potrebbe accadere almeno nell'arco delle 3 ore successive? Ingeborg, attonita, lo fissò in viso per un istante. Beh, disse poi, se suo padre le avesse posto anche solo una di queste domande in quel tono di voce, sarebbe rimasta ammutolita, schiacciata dal loro peso, annientata. Ma Robert non aveva esercitato su di lei fin dall'infanzia quella radicata, perpetua influenza che le incuteva tanto timore. Non poteva far pendere su di lei la minaccia, come una spada sollevata e pronta a colpire, costituita dal debito che aveva contratto verso suo padre per averle donato la vita. Suo marito non poteva pretendere da lei eterna gratitudine per quella remota, straordinaria grazia elargita quando era ancora un essere privo di coscienza. Era semplicemente un estraneo gentile nominato dalla Chiesa a camminare al suo fianco, mano nella mano, lungo la sua vita di donna adulta. Egli aveva provato ammirazione per lei, l'aveva baciata e spesso durante il loro fidanzamento si era abbassato sino al punto di prostrarsi ai suoi piedi. Inoltre lei l'aveva visto in situazioni particolari, ad esempio mentre si faceva la barba. Credo, esordì dopo una pausa di stupore, che tu mi stia sgridando. E mi stai sgridando perché sei adirato con me e sei adirato con me. Robert, è possibile che tu sia adirato con me perché non sono malata? Egli gettò via il sigaro e, afferrandola tra le braccia, iniziò a produrre sonori bisbigli in un orecchio. Cosa? Continuava a dire Ingeborg. Cosa? Insomma, mi fa il solletico. Cosa? Non capisco. Ma alla fine capì e si scostò un po' da lui per guardarlo con un'espressione di rinnovato interesse. E sembrava assolutamente incredibile che Robert, sempre così occupato, sempre in qualche altro luogo con la testa, così intensamente e frequentemente assente dalla vita reale, così assorbito dal suo lavoro da ricordarsi a malapena di avere una moglie, desiderasse dotare la sua persona di un'ennesima appendice, quale sarebbe stata un figlio. E altresì che lei, invece che nella vita reale ci viveva sempre, che assaporava il gusto di ogni singolo minuto dei suoi giorni e che era padrona del suo tempo, che non perdeva mai il contatto con il presente, la cui coscienza mai per un solo istante aveva allentato la presa sul visibile e sull'immediato, non dovesse nutrire tale desiderio. Ma noi siamo felici così? Felici così come siamo? È ancora niente in confronto alla felicità che ci attende. Ma io non mi sono ancora abituata a questa felicità, a quella di adesso. Ti garantisco che preferirai di gran lunga la felicità che deve ancora venire. Robert, non mettermi fretta, ti prego. Non perdiamo l'opportunità di apprezzare il presente. Prendiamoci il tempo di assaporare ciò che già abbiamo. Godiamoci prima tutto questo. Egli la guardò con aria seria. Siamo già sposati da 2 mesi? Disse, mi sembra giunta l'ora. Questa sera non trovo le parole per dirti quanto sia stato felice, e poi tutto è finito in niente. Mentre lo fissava, sentì che sulle sue spalle si andava ad assommare il peso di un nuovo dovere. Quelle ultime parole, pronunciate in un tono che sino a quel momento non aveva avuto modo di conoscere, suscitarono in lei un senso di colpa. Robert, disse prontamente, allungando la mano per sfiorare la sua con un movimento dolce e carezzevole. Ciò che desiderava sopra ogni cosa era renderlo perfettamente felice. Aveva sempre adorato rendere felici le persone. Inoltre, gli era così grata per la libertà che aveva acquisito per suo tramite, che anche solo per gratitudine. Anche qualora non l'avesse amato, Ingeborg si sarebbe sentita in dovere di compiacere ogni suo desiderio. Lei comunque lo amava, non vi era alcun dubbio al riguardo. Ed ecco che ora sembrava vi fosse qualcosa al di sopra di ogni altra cosa che gli desiderava avere e che lei sola poteva donargli. Mentre lui voltava il viso per celarlo alla sua vista, Ingeborg scorse un luccichio nei suoi occhi come un brillare di lacrime. Commossa, lo cinse con le braccia all'istante. Ma certo che anch'io ne desidero uno, disse sfregando la guancia su e giù sul suo impermeabile. Ne avremo un mucchio, certo che li avremo, tutti ne hanno. Inizierò presto. Non badare al fatto che non sono stata male questa sera, mi dispiace tanto. Starò male, vedrai, caro Robert. Non sapevo di dover star male, ma lo farò presto. Sono certa che mi ammalerò quanto prima, anzi, già mi sembra di star poco bene. Egli, sempre tenendo il viso voltato via da lei, le diede dei piccoli colpetti amorevoli sul viso, dicendo: Brava la mia mogliettina. Ingeborg, in un empito di partecipazione e solidarietà, si sentì più vicina a lui di quanto mai prima. Aveva visto le lacrime di un uomo. Quali straordinarie profondità emotive segnalavano. Da un ricordo imprecisato le affiorò alla mente la frase «le lacrime di un uomo forte» che non riusciva a togliersi dalla mente. Si strinse a lui, animata dallo sconfinato desiderio di renderlo completamente felice, di proteggerlo da qualsiasi sentimento che potesse procurargli pena. Lo tenne così, a lungo, fino all'arrivo a casa, poggiando la sua guancia sul braccio, e sfregandovela di tanto in tanto per mostrargli quanto bene comprendesse. Quando dinanzi alla porta egli la sollevò per aiutarla a scendere dalla carrozza, le fece scivolare la mano sulla nuca del marito, tenendovela un attimo con il più tenero e più languido dei tocchi. Robert, caro, gli bisbigliò avvicinando le labbra al suo orecchio mentre lui la deponeva a terra. Implicitamente quelle parole esprimevano la struggente rassicurazione materna, la pronuncia del voto. Oh, piccolo uomo indifeso, mi prenderò cura di te. Mentre lui si assentò un attimo per controllare che tutto fosse in ordine, come le aveva detto, Ingeborg si aggirò per il soggiorno al corridoio, attendendone il ritorno, in una condizione di accesa esaltazione, sentendosi all'improvviso tutt'uno con lui, parte stessa di lui, certa che dopo averle permesso di vedere qualcosa di così sacro come le sue lacrime, egli desiderasse solo trascorrere il resto della sera con lei, lasciandosi confortare e rassicurare, lasciandosi stringere al suo cuore, parlando dolcemente con lei nella tranquillità del loro giardino. Ma sul tavolo, pronti per il processo di conto e pesatura, Herr Dremmel trovò 6 misure di chicchi di segale, coltivate in diversi modi, proveniente dal raccolto dell'anno precedente. Li vide e dimenticò il mondo. Iniziò a contare e pesare. Continuò a contare e pesare. Finì con il contarli e pesarli tutti. Stava già albeggiando quando, soddisfatto e consolato del pomeriggio di lavoro perso, si sovvenne del fatto che forse era ora di andare a letto.